io. Come, come? Me col dipolo, un dipolo io ho buttato così ieri, che sto provando. Non so però il segnale da te quanto è. Sicuramente è basso perché è polarizzato orizzontale. Sei sempre basso, sì. 9+20 sì, è abbondante. Ascolta, sto usando l'SM20 col 14. Com'è la modulazione? Bella, solita, fare il 60. Sempre, non cambia un cazzo. Porca miseria. Volevo che cambiasse un pochino, non c'è niente da fare. Va bene, va bene. Bella tosta, no? Si sente bella forte. Sì, sì. Anche SM20 c'è un bel microfono. E c'ho l'adattatore da Icoma, che vuol dire, ho capito. E quindi ho detto che lo provo. Il 60 me lo sono passato sul 430, sono dovuto stare sempre cambiando, facendo, intanto questo era fermo perché è del 275H, ma non lo sto usando lì, come capito, ce l'ho solo in ricezione, non mi interessa. Va bene, va bene. Allora se spinge siamo a dama, siamo a cavallo. Funzica, funzica. Ah, mi ha detto 9.20, Giulio mi ha detto 9.10, va bene. No, tu qua sei 9.20 con questa radio, ma anche con le altre non c'è problema. Mi ho messo gli occhiali, prova, vediamo un po'. Sì, 9.18, si sta squidando il telefono. C'è il venticello! E il tuo rumore cos'è? Questo rumore cos'è? Eccoti qua! Il PMR è acceso, ce l'hai. Guarda questo rumore, questo è un telescopico, guarda. Guarda che te lo sto mandando, guarda. Hai sentito? Sì, si sente però un rumore di tipo vento, la No, non è un rumore tipo vento, no. È un rumore da 5 a 7 a 8. Rumore di telescopico. Ma dove lo stai ascoltando? Qua nel canale 10. Qua nel canale 10. Canale 10. No, io non lo sento. Bene, lascia in occhi. Lascia sottintendo a me. Io qua non sento nulla. Ma io sì, però. Ho fatto sentire a lui. Lo sento forte pure. Da 7 a 8, 5, 6 fa, poi 7, sale a 8, torna a scendere. Di solito quando cambi canale ti dovrebbero persequitare, basta che fai la prova. Senti, se lo senti per adesso messo 12, ecco. Se adesso messo 12 per dire, se lo senti lì vuol dire che quello che pensi tu. Io non c'ho niente da perdere, da nascondere, non me la fottio da me, pure mi gira pure la voce delle balle, me la fottio assai. va bene, dai. Sono un attimino preparato una cosa, ci ha detto fa poco. Io, va bene, va bene, già ci sentiamo dopo, Antonella. Io sono qua, davanti tu. Luca sta riparando cosa, già sono qua in ascolto, non c'è problema. Che è? Andiamo, vai, andiamo. A me la zappa ripresa ce l'hai, ho ancora sospeso ce l'hai. No, è sempre incasinato, è ancora incasinato lui, è ancora incasinato, mi arrivano i cosi, le notifiche, però non me le fa vedere, è ancora incasinato. Vabbè. E io sono stato per una vita con Vodafone, però mi dispiace Baretti, troppo caro le cose, capito? Troppo caro, allora sono passato a Wind, con Wind pago 8 euro al mese e sono a posto così. E io non sono passato a Wind. Io ho Windy 3 a casa, nel telefono c'avevo Tim, adesso io e mia moglie siamo passati Windy 3 lo stesso, capito? Mi stanno riattaccando la linea, sì, sì. No, non so quanto pago io con Tim, quanto pagavo anzi, la chiamano su Cubale Neutra, tanto è vero che posso solo ricevere dal telefono. Ho messo la scheda in quello di mia moglie. E sono qua, cosa vuoi? Sono qua. Qua 15 euro, 14 euro 95 euro. Certo. Vabbè. C'era Luca. Allora lui ha giudicato questo SM20, lo lascio. Via, ora c'è il chiaro che andare. Va bene anche perché è bellino, quindi già l'ho messo in mezzo e 2,60. Va benissimo, ottimo per la truppa. Ma dovrebbe rientrare Giulio. Va bene, allora mi ha scelto un attimo qua. Adesso lascia acceso comunque. Dovrebbe entrare Giulio, ma te stava entrando. Sì, già sono qua io, non c'è problema. Ci sentiamo dopo. Alleluia, la luce è tornata. Luca. Luca, ci sei? Luca. Ti tabara. Ehi, poi ciao qua. Ehi, la luce è tornata, dai, non c'è la luce. Mi ha dato i nomi, che vara un raio che vara. Se metterci che c'è una cabina qui che fa schifo. Ehi, qua non sta mancando più come prima. Ogni tanto già, l'altro giorno facevo attacca e stacca, c'avevo tutta la radio accesa, abbiamo lasciato usare la vita, YouTube, siamo qua, succede un casino, perché agganciava, sganciava, poi finalmente è tornata definitivamente. Ok, qui ogni tanto c'è questo problema, vabbè, comunque, l'altro giorno ho visto che c'erano gli elettricisti, che stavano guardando i figli dell'Enel, hanno fatto tutta la strada con la testa in alto guardando i figli, poi chissà cosa stavano pensando, boh, vabbè, comunque adesso ci siamo, dai. Non stavo guardando, c'era Brunelli, invece anche lui muovendo i mobili e Fendi, non so, sono stanno svuotando quell'appartamento dell'ultimo piano che hanno venduto. Ho capito. Vabbè, può essere. No, qua no, io non ho sentito nessun tuono, la verità. Perlomeno qui non ancora no. È tranquilla la situazione. Sì. No, perché avevo un appuntamento sul 10 con Luca, ma l'ho chiamato ma Luca non risponde. Vabbè, gli ho mandato un messaggio che non c'era corrente elettrica, dunque adesso è arrivata, era una, comunque mancata almeno 20 minuti, una cosa del genere, forse anche di più. Allora qua Luca, infatti ti stava chiamando e poi si è spostato un attimo, e poi nel frattempo mi sposto, già torno dopo. Ok, va bene, dai, allora già ritorna, e così è, e così sia, cosa vuoi che ti dica? No, stavo guardando la gara ciclistica, la tappa del Giro d'Italia, ma gli italiani non vincono più, boh, non è possibile. Questo Nibali è morto anche lui, ormai non serve più. Oh, Nibali, grazie ai ciclisti da Rimoni. No, ne abbiamo più campioni in Italia, boh, boh. Vabbè, comunque. Di Baredde, oh, c'è un tempaccio lì perché a fare il Giro d'Italia adesso in ottobre, col tempo brutto che hanno incontrato anche questi ciclisti, ci vuole coraggio, però è il loro mestiere, giustamente, e lo fanno quel lavoro lì. Beh, anche i pantani non va via. No, quello di Villa Cidro è che non si sente più, non lo so se è infortunato, non lo so. Sì, è un problema che non riesce a recuperare le forze fisiche. Aveva questo problema la gamba l'anno scorso, la stagione passata. E quest'anno era il Giro di Francia, ha fatto alcune tappe e poi si è dovuto ritirare perché non riesce a recuperare, era sempre ultimo era, in tutte le tappe. Quando l'ha fatto? Ne avrà fatto 9-10 tappe, avrà fatto una cosa del genere. e poi c'è dovuto ritirare perché non riesce a recuperare. Aru si chiama. Aru, sì, quello lì. Non ho più sentito, l'altro giorno stavo guardando, non sono molto appassionato di ciclismo, però stavo guardando lì a Rai Sport. Ho visto che appunto stavano parlando di lui, che aveva avuto un infortunio qui e là, poi non so. E vabbè, stava a ripigliare pure. Io glielo auguro, anche perché è giovane, è un ciclista giovane, per cui è il suo lavoro, però io ho la sensazione che i corridori italiani proprio furti come una volta ai tempi di Mondi, Adurni, Saloni, tutta quella gente lì, per non andare ancora più indietro, ai tempi di Battaglia e Cuppi, ma quelli sono tempi abbastanza lontani ormai, non ce ne sono più noci qui, sì, come si deve in Italia. Poi su nota partono tutti insieme e arrivano sempre tutti insieme, solo in volata sì, si contendono la vittoria. Tutta una volta i campioni partivano, ciao, arrivederci, grazie, ci vediamo al traguardo, e non li trovano più gente come Gimondi, Indurain, Merfi, tutta questa gente qua. Poi invece pare che sia sempre Battigelli. E infatti, e vabbè, non c'è più nome di ciclisti come un tempo, però già ce n'è, bravi, dai, già ce n'è, ho visto che già si vanno da fare. Sì, ma i più bravi sono tutti italiani, vabbè, comunque, pazienza, vuol dire aspetteremo tempi migliori. Ui, purtroppo è così. Vabbè, lo sport si sa, è uno sport riconosciuto un po' da tutte le parti del mondo, e all'estero campioni ce ne sono tanti. Non a caso non vince mai il più forte, a volte vincono anche i gregari, quelli che portano le borracce. Vabbè, quando termina questo Giro d'Italia? Cosa hai detto? Stavo stonando l'orecchio qua. Cosa hai detto? Che mi ha messo la medicina poco fa. Quando termina questo Giro d'Italia? Ma oggi mi sembra che era, se ricordo bene, la tredicesima o quattordicesima tappa. Di solito sono 20 tappe, 21 tappe, sì, che ancora ce n'è, penso un'altra settimana. Ancora allora. Oh, non è che sia molto lontano in classifica. Nibali è quinto in classifica, a 57 secondi mi sembra, dal primo, una cosa del genere. Per cui ha tutto il tempo per recuperare, ma senz'altro non credo che ce la faccia, perché è sempre in retroguardia lui, e non è mai all'attacco. Ma quando mai un campione come lui non deve cercare di vincere anche qualche tappa? Non è possibile. Aspetta, giù, che sto dando un controllo a Vittorio sul PMR, vieni. Ok. Va bene. Ok. Si vede che sta facendo qualche riparazione Vittorio allora. Sicuramente, mi ha chiamato in PMR e sai che ce l'ho sempre acceso, poi sono l'unico che lo sente al laboratorio con l'antennino. Te lo credo, a parte il fatto che più o meno siete in zona, e poi la torre di controllo se no a cosa servirebbe. Vero, Cla. L'altro giorno ho sentito una cosa del genere in banda amatoriale, un take-off, comunque in VHF c'erano due o tre che erano in montagna, ti ricordi, te l'ho detto, che vanno a fare con la riparazione, eccetera, e uno appunto mi ha citato, ci manca il punto di riferimento, la torre di controllo, la torre di controllo è caduta, peggio Balvuri avete fatto a Gagì. Allora c'è qualcuno che ha qualche rimpianto. Vabbè, vedi cosa ci vuoi fare qua. D'altronde è così. No, ma io al punto che eri tu, al livello che eri tu, con tutte quelle radio eccetera, se devo essere sincero non avrei non l'avrei staccato, o non l'avrei fatto dall'inizio, oppure non avrei staccato niente e avrei modulato con fuori, che mi si è considerato che avevi e hai ancora quelle possibilità. Pazienza, se non andavano a genio questi del locale, allora avrei chiamato fuori, perché no? E dunque i collegamenti li puoi fare tranquillamente, per cui vabbè, comunque è andata così, pazienza. No, a me ho fatto solo le direttive, Giulio, io le chiaffe ce le ho collegate anche stamattina in 40 metri e arrivo da tutte le parti come ero prima. Ho tolto solo le direttive, è la 510, quella grande, basta. Però io c'ho di poco multibanda che va molto bene a quell'altezza, figurati. Arrivo, c'ho i 15, 20, 40, gli 80 metri, c'ho 4 bande a disposizione, non c'è problema. Sono tutto sempre attivo, sono io che non entro, anche le V sono attive, le U sono attive, beh, se le sto usando, ma io che non entro proprio, non mi interessa. Stavo ascoltando poco fa anche il monitor, c'è l'Alghero, quindi lui già c'è tutto sotto controllo, io non già lo sai come funziona la mena, non c'è problema, è una mia scelta, quindi non me ne frega niente, però per dire, no? Siccome prima facevano le prove e mi chiamavano perché le prove appunto si fanno anche con le potenze basse, con le potenze alte, con antenne piccole, antenne grandi, eccetera, e quindi ero un punto di riferimento, anche perché se ti allontani verso il Campidano, io sino a Ristano ti accompagno in diretta, quindi non ho problemi. E appunto stavo dicendo questo, è mancato il punto di riferimento, è morto il punto di riferimento, non esiste più, caput. Vabbè, pensate che c'è sempre vivo l'individuo, poi il punto di riferimento, se non c'è, per gli umani che se l'hanno perduto. D'accordo, vabbè, comunque, alle volte succedono nella vita anche cose strane, però vabbè, io non voglio indagare niente a fondo, ci mancherebbe altro. Io non sono mai stato all'interno di una certa situazione, di conseguenza non voglio né indagare, tantomeno non sono curioso di sapere più di tanto. Vabbè, la vita purtroppo ci porta anche a quello, e cosa ci vuoi fare? Siamo tutti uguali, tutto sommato, però alla fin fine nessuno può dire che io prevalgo sugli altri umani, no, nella maniera più assoluta. Tutti uguali siamo qua. E ho detto bene, proprio perché pensano di non essere uguali agli altri, che a me non me ne ha fatti venuta, non è successo assolutamente niente, è una mia scelta, assolutamente. Non sono più in contatto con nessuno, ma per carità, ciao ciao, ognuno a casa sua, ci mancherebbe. Va bene, è inutile, mi mandate messaggi, intanto me li segna ma non me li fa vedere, mi arrivano le notifiche ma non me li fa vedere, quindi Giovanni, io ho una cinquantina di messaggi, vabbè, quando mi attaccano la linea, vabbè, dai. Va bene così, Giulio, ognuno fa le sue scelte, io sto bene così, non me ne affutti proprio nulla. Luca! No, e Luca è al lavoro, che mi ha avvisato che sta ascoltando ma non può entrare perché sta lavorando. Sì, beh certo, qua, a questo punto è ovvio che uno fa le sue scelte e le scelte di ognuno vanno senz'altro rispettate, ci mancherebbe altro. Purtroppo così. No, poi per quanto riguarda il telefono, io l'avevo cambiato da poco, qui io avevo chiesto la fibra, perché prima avevo internet del normale, no? Siccome internet qui io lo devo avere per forza perché ci lavora mia figlia su internet, e dunque abbiamo cambiato, abbiamo risparmiato una decina di euro, no, una quindicina di euro nella bolletta, perché prima pagavamo tutti i mesi 57, 58, una cosa così, anche 60, 62 qualche volta di bolletta, no? E adesso invece, adesso paghiamo 41 e qualcosa, 42 diciamo, dai, arrotondando. E adesso c'è la fibra, sempre continua però, non c'è, cioè con Telecom, quanto vogliamo, che poi oggi è Timbi, non è più Telecom, ok? No, io col telefonino ci sono dal 2005 con la TIM, fate conto, 2004-2005. Sono sempre andato di lusso. No, a casa io avevo Tiscali e poi sono passato a Wind 3. E cioè Wind 3, infatti adesso anche il telefono mio personale, il telefonino, lo sto facendo con Wind 3. Però c'è un problema di scambio per quanto riguarda il contratto, perché avevo un contratto praticamente a fatturazione aziendale ed è rimasto quello, capito? E allora stanno aspettando la disdetta che avevo io, perché io me lo ricarico il telefono, però la fatturazione la paga sempre l'azienda, perché me l'ha regalato. Quindi sto aspettando il nulla osta dall'azienda per disdire il contratto e poi mi attivano la linea a me, capito? Tutto qua, siccome è una cosa un po' lunga, perché essendo una multinazionale, non so se il contratto l'hanno fatto a Cagliari, a Milano, se l'hanno fatto in Spagna, non lo so. E quindi sto aspettando, capito? Per quello che ho la linea saccata. Perché quel telefono era dell'azienda. Mi sono messo la scheda mia e basta. Va bene che va bene. Sì, e beh, sì, certo. Diciamo che ogni tanto c'è qualche altra compagnia che ci chiama, che vorrebbero che noi cambiassimo il contratto e andare con loro, ma noi abbiamo fatto sempre le cose con la gestione originale, tipo prima era Sippi, poi Teleco, adesso TIM, e così lo stesso discorso vale anche per l'Enel. Ogni tanto ci chiamano, ma non abbiamo mai cambiato e non cambiano mai, no? Tanto è inutile stare lì, anche perché ho sentito alle volte gente che ha cambiato, gente della zona soprattutto, che ha cambiato gestione e poi viene proprio due bollette, una vecchia da nuovo, si può immaginare. E infatti a quel punto la gente va e protesta, no? Mentre invece per quanto riguarda il telefonino, inizialmente avevo Wind, e me ne prendevo dei soldi senza utilizzarlo dalla scheda, no? Mi azzeravano praticamente la scheda senza consumare le telefonate, eccetera. Poi ho cambiato, avevo Poste Mobili e l'ho tenuto due anni e mezzo, una cosa così. Anche lì, prima lì pagavo 30 euro al mese. Pagavo, cioè al mese, ogni 3 mesi volevo dire, non al mese, 10 euro al mese, e pagavo però ogni 3 mesi, facevo questo versamento ogni 3 mesi, e anche lì hanno incominciato poi ad aumentare, e allora niente da fare, ho cambiato, adesso sono di nuovo Vodafone, adesso ne ho due numeri io, e sono tutti e due Vodafone, e adesso sto pagando 7,90 euro, una cosa del genere, insomma 8 euro al mese con internet compreso, sto parlando del telefonino, internet e poi 50 giga e più telefonate illimitate, messaggi eccetera. Fino a questo momento va bene, però ogni tanto vola un po', mi fa il numero, che mi mandano anche il messaggio se voglio cambiare, che mi danno un premio di un mese, e dopo di un mese aumenterebbe la tariffa a 15 euro. Io quando mi mandano il messaggio addirittura nemmeno le rispondo, vedo vola un po' e cancello, mi chiudo la comunicazione. Lo so, no, il mio mi continua a arrivare notifiche, ma intanto non me la fa vedere, quindi non so manco chi è. E vabbè, non è telefono aziendale, questo che ho è aziendale, il contratto è aziendale, capito? Il contratto è aziendale, quindi devo aspettare adesso la Wind 3 che mi dia l'ok, capito? E poi faccio la voltura. Ok. Sì. Vabbè, d'altronde è così. Poi, anche mia figlia dice... Scusa un attimo, mi stanno telefonando. Ehi, io sono qua. Flippo. Cosa c'è? Claudio, sono ritornato. Sì, aspetta un secondo. Ok. Eccomi, che stavo facendo una cosa a mia moglie. Aspetta che mi tengo... Abbiamo più bene, non si vede, non lavora mai. Scusa un attimo, che avevo acceso il telefonino. Sì, fai, fai, già sono qua io. Stavo ascoltando una canzone di mio fratello, che c'è a Trevese. Va bene, dai, nell'attesa. Va bene, dai, rientrato. Non entra nessuno stasera, tutti silenzio, nemmeno sul 23 c'è nessuno, non c'è nessuno, anche lì silenzio assoluto. E non sai che entrano. PMR, Maraiata. PMR, sì, lo so. Già l'ho visto le cose, c'ho il volume abbassato io, ma ho visto lo spioncino che si è illuminato e anche il display che si illumina, anche se non si legge più niente. Si illumina e non si legge più niente. Sì, vabbè, mettiamolo qualcosa di nuovo, perché mi dà fastidio il fatto di non vedere ad esempio la frequenza e tutte le altre cose. Tanto ballo che cuce. E poi già è utile, già lo uso. Sì, vabbè, qui Vox è un po'. Non è arrivato una lunga, però è un Vox, capito? Quello costa un bel po', per essere un portatile, costa più di 100 euro. Ce n'è l'80, la 100, 120, come pare sia la versione quella là, come ricordo, 100, 120. Va bene, va bene. No, io non ero di quelli, sono travelato al volo. Cioè, quelli un po' più seri. Un po' più seri. Sono anche DMR. Fanno anche il sistema digitale. Va bene, va bene. E non entra nessuno e vuol dire sono impegnati. Cosa? Perché non devo andare a nessuna parte, ma fra un po' sarò ridotto a vedermi la TV, poi verso le 7:30, 8 porto a lui e avevamo preparato a dare una mano che chiusura l'aria, mia figlia non a dare una mano, arriva alle 9, chiude e si ritorna a casa. Io lo credo, dopo un'intera giornata di lavoro avrà pure il diritto di rientrare a casa senza fare le ore notturne, che lo grido. E vabbè, dai, comunque, si sa, sono purtroppo sono situazioni queste in questo periodo che ci dobbiamo assoggettare a quello che decidono. Anche oggi 133 in Sardegna contagi, e di questi 133, se ricordo bene, una quarantina in circa, più o meno, in assenza, adesso mi ricordo così, magari diciamo che è provincia di Sassari, non la Sassari città, e poi ci sono anche due anziani, uno di 61 anni e uno di 62 mi sembra, e anche quelli sono deceduti purtroppo, sempre a causa di questo problema che c'è in atto adesso. Speriamo bene, voi dove ci richiamo? No, ma non sono a Sassari, sono in provincia di Sassari. Sassari ne abbiamo pochi, non sono molti. È in provincia di Sassari che è aumentato, capito? Sì, infatti provincia, ho detto provincia. Sassari si dice, ma provincia è sempre inteso come provincia, perché sono un bel po', te lo dico subito. Quanti sono esattamente a Sassari? Due vittime a Sassari, 133 positivi, e poi sto guardando il telefonino, sto guardando, ecco, 48 a Sassari, inteso però come provincia, provincia di Sassari, 48. Ebbene, lo siamo di sia, non è niente, non è niente, non è niente. Già siamo preparati, sicuramente meglio di prima, però bisogna stare attenti, bisogna far funzionare la testa, se no è un casino. Sicuramente sì, però devi considerare che gli ospedali ormai non hanno più posti nemmeno per i ricoveri quando uno si sente male. Infatti anche una ragazzina di 12 anni è stata ricoverata asintomatica, magari si sa, sta dietro, non c'era il nome, perché giustamente non lo mettono il nome, però è stata ricoverata ed è in ospedale. Forse pensano di dimetterla tra alcuni giorni, essendo asintomatica, di cui ha bisogno solo di fare la quarantena, poche parole, almeno spero per lei che sia così, 12 anni. Sono morti due, uno di 62 anni e uno di 60. Non so dove, comunque, forse in provincia di Cagliari, non lo so. Qua, sinceramente Giulia, non lo sto manco più seguendo, perché sto ascoltando tante di quelle stronzate, cose vere e stronzate, politicamente, non politicamente, non mi ne affutti più, una vada come vale, va, intanto io non sono come temi, non ho niente da perdere, niente da guadagnare, mi ritrovo a casa già ci sono adesso, sono qui sempre in quarantena, quindi continuo a starmene a casa. Il resto ce l'abbiamo, abbiamo già dato, quindi cosa vuoi che ti dica? Non ho niente da aggiungere. In effetti è così, d'altronde bisogna essere prudenti e uscire il meno possibile, solo in caso di strettissimo bisogno, se no è inutile andarsene in giro, tanto vai in giro e non puoi avvicinare a nessuno, nemmeno un amico. Non puoi entrare in un bar perché è rischioso, anche se si entra lo stesso, però tutto sommato uno cosa fa? Tanto vale, me ne rimango a casa tranquillamente, tanto più che sta incominciando il tempo freddo, per cui il posto migliore da rimanere è il proprio domicilio. Pertanto non è che mi preoccupa più di tanto, però essendo abituato ad uscire tutti i santissimi giorni, un po' di fastidio me l'ha dato e me lo sta dando ancora. Ma cosa ci possiamo fare? La situazione è quella che è e bisogna adattarci. Registrato il becco? Sì, vabbè. Così è pazienza, io l'unica preoccupazione che ho per mia figlia che ha già un'attività, quindi è un casino. Avanti il brecco, non risponde, avanti il brecco, sparito, ha fatto doppiamente il brecco, e poi non, forse ha qualche problema, non è che sarà mancata la luce come è successo a me poco fa, no? Attento l'amico del brecco, ci sei? No, niente da fare, non risponde, pazienza, dai, ritenterà. Guarda, se è mancata la luce dalla voce, però il segnale era molto basso, non era il suo, mi è sembrato Massimiliano. Può darsi, non ho capito bene, dalla voce non l'ho riconosciuta, anche perché in questo periodo ci sto sentendo male con questo fatto del tappo che ho nell'orecchio, dunque, però se è Massimiliano già riprende. Speriamo che non gli sia mancata la luce, perché si è mancata a me qua poco fa, vabbè, qua ormai è ritornata e non è escluso che possa mancare anche lì, visto considerato che siamo in zona più o meno. Ci sei il brecco, avanti, ci sei? No, non c'è no qua. Dalla voce mi è sembrato lui, il segnale non era il suo, dalla voce mi è sembrato lui, non lo so. Stavo provando qualcosa, sicuramente mancata la luce. Va bene, e cosa vuoi ti dica? Non so che dirti. Brecco. Allora era lui, perché brecco lo fa Massimiliano. Adesso sei tu, poco fa ci avevi segnale basso Massimiliano. Lo so, ciao Cla, buonasera anche a Giulio. Ho acceso e è mancata così di colpo la luce, poi è tornata, capito? Forse ci avevo i watt troppo bassi, non lo so, com'è adesso, buono? No, adesso è il tuo segnale, 9:20 quasi. Positivo, dai, ciao Giulio, buonasera anche a te. Ciao Massimiliano, ben ascoltato, è un piacere di ascoltarti, dopo un bel po' di tempo. Anche io, poc'anzi avevo questo problema anch'io, ma intorno alle 5:30, una cosa così. ma qui è mancata per una ventina di minuti, eh? E tu sei stato fortunato che è mancata e mi è tornata subito la corrente. E ogni tanto qui già succede, eh? Non molto spesso, però diciamo che ogni tanto in tanto già manca anche qui la corrente. Avanti ancora, Massimiliano. E qua diciamo che nella zona dove abito io, quando c'è tempo brutto, manca spesso, capito? Quindi ha dato un colpo, infatti volevo entrare così e poi si è spento tutto, gli ho detto ma è lo stesso, invece poi alla fine si è ripreso là. Eia, va bene, avanti qua. Eia, Massimiliano, no, ma dalla voce ho detto a Giulio, ti ho riconosciuto, però il segnale no, era un po' più basso del solito, forse come hai appena pigiato il PTT, già l'ho detto a lui, infatti mi è sembrato la voce Massimiliano, perché becco becco lo fai tu, capito? Va bene, no, qua no, tutto a posto. L'altro giorno sto facendo a Giulio, è mancata a sbalzi, andava e tornava, infatti ho abbassato il salvavita perché avevo la radio accende e spegni, ho detto va, ho abbassato tutto e poi dopo una decina di minuti è tornata fissa, capito? Vai Giulio. Ok, sì, beh, certo, infatti stavo dicendo poc'anzi che un paio di giorni fa sono passati gli elettricisti qui dell'Enel e ne stavano controllando tutta la linea elettrica che c'è sui muri delle case per tutta la strada, evidentemente qualche lavoretto dovranno farlo, non lo so sicuramente, perché anche qua diciamo secondo me l'impianto che c'è qua intorno non è dei migliori, dai, è quello che ho pensato. E va bene, dai. Bene, bisognerebbe attrezzarsi come ha fatto Luca. Luca è attrezzatissimo in quanto a questo, anche se manca la luce, lui ce l'ha sempre perché ha tutto un impianto non particolare, ma un impianto conosciuto e lui si difende in questa maniera. Bene, avanti Massimiliano. Sì, positivo, e vabbè, hai la luce, ma diciamo che potrebbe essere una cosa buona avere solo la luce, però giustamente poi le prese non funzionano, il frigo non funziona, sono le cose più basilari, no? Uno balla luce, si buburu, arrangia. No, ma comunque già lo conosco, l'impianto di Gianluca ha fatto una buona cosa. C'è un po' di risparmio, dai. Sì, c'è un po' di risparmio, no, ma mi dice che funziona tutto, televisione, tutto. Dipende, non è come spesa, non è nemmeno molto, molto costoso. Mi aveva spiegato il tutto come funzionava e ritengo che sia un sistema ottimo, oltre al fatto che risparmi molta corrente elettrica, perché l'illuminazione la puoi avere direttamente da quell'impianto senza bisogno di usufruire dell'impianto dell'Enel. Va bene, dai. Avanti Claudio. Sì, lo so anch'io, ma l'avevo. No, io ce l'avevo sul computer prima, quando usavo molto il computer, che lo usavo per lavoro, eccetera, ce l'avevo dentro l'armadio, non so come si chiama, accumulatore, tensione, insomma. Quando mancava luce il computer non si spegneva, perché ogni volta era un casino. Perdevo i dati e tutto, ho capito, soprattutto quando stavo facendo la relazione di lavoro. E allora ho comprato quello lì e ce l'ho dentro l'armadio. Ho provato ad attaccarlo agli alimentatori della radio, però la tensione me la dà molto bassa, mi si abbassano le luci della radio, quindi ne ha già attaccato. Va bene. E allora Massimiliano, tutto a posto. Quindi del fatto il fine settimana, giovedì, venerdì, sabato, così e domenica. Ho lavorato solo avanti ieri e basta. Poi lunedì siamo andati e siamo andati via, martedì era tutto fango, non ci hanno fatto lavorare, ho lavorato mercoledì e basta, quindi la settimana piena senza lavorare, e vabbè, colpo suo. E poi dove sei tu lì, non è che poi sei anche pericoloso per il terreno, quando hai un mezzo così pesante a muovere, a fare, e vabbè, a futtidini. E poi sta piovigginando con la pioggerellina, fine. Domani dovrebbe essere lo stesso così come oggi. E poi domenica fa tempo bello, domenica è una bella giornata. Vai Giulio. Sì, beh, ormai siamo andati incontro alle stagioni invernali, e dunque anche se siamo in autunno ancora, voi immaginatevi che adesso questo mese dovrebbe cambiare anche l'orario, sicché la sera molto presto sarà buio, ed è una cosa che a me dà anche fastidio, perché mi piace di più l'ora legale, avete considerato che la sera in una certa ora c'è sempre luce, mentre invece cambiando l'orario, se vuoi immaginare, tante volte alle 5 bisogna accendere già le luci perché c'è buio. Io, soprattutto quando sono giornate di pioggia eccetera, che la giornata è grigia, purtroppo è così, anche quello fa parte della natura. Vai Massimiliano. Vabbè. Adesso a quest'ora siamo alle 7, quindi quando cambia l'orario siamo alle 6, non ci andiamo un'ora indietro. Quando è che cambia? Adesso non so se a fine di questo mese forse. Sì, io penso che sia la fine di questo mese sicuramente, o perlomeno magari nella giornata di sabato o domenica della fine del mese, non lo so in che giorno capita la fine del mese, però è sicuramente questo mese che cambieranno l'orario. E vabbè, ce lo prendiamo come ce lo danno l'orario, che se ne frega. Intanto, a livello di protezione, come stai andando al lavoro? Viene male a lavorare con la protezione, mascherine, eccetera, Massimiliano? Ma diciamo che a livello di protezione abbiamo le mascherine quando viaggiamo nei furgoni, però siamo limitati nei furgoni, capito? Nel senso che, ti spiego, un furgone da 9 posti viaggiamo in 6, un furgone da 7 si viaggia in 4, capito? Per la distanza e queste cose qua. Poi vabbè, io una volta che me ne salgo sul mio mezzo non sale nessuno, quindi diciamo che lavoro tutto il giorno senza mascherina, eccetera eccetera. Ok, almeno quello, nel momento che stai lavorando, avete considerato che sul mezzo non sale nessuno, non si avvicina nessuno addirittura, perché non è possibile avvicinarsi a un mezzo come quello che lavora, ci mancherebbe altro. Bene, avanti qua. Ma Claudio si vede che è impegnato col telefono e dunque non può riprendere. E così è Massimiliano. E allora, adesso è un bel po' di tempo senza entrare in frequenza, infatti insomma, quasi faccio uno squillo a Massimiliano, poi ho pensato mai se lo disturbo, così almeno per salutarlo, avete considerato che in frequenza non ci siamo più sentiti, almeno un saluto al telefono, io ero intenzionato a farlo, Massimiliano, non so se ti avrei disturbato. No, Giulio, assolutamente no, non mi avresti disturbato, mi avrebbe fatto solo che piacere. È un periodo un po' così, dai, diciamo, no, mi sono voluto allontanare per cose mie, dai, più che altro, diciamo che stava un po' finendo la passione, più c'erano altre cose, quindi mi sono voluto allontanare per cose mie, ecco, diciamo così. Sì, Massimo, certo, ti capisco. E diciamo che non stanno frequentando più come una volta. Adesso io non voglio fare i nomi, però non lo so, tante persone. Infatti siamo ridotti la sera, siamo ridotti a 2-3 persone massimo, e raramente 4 persone nella rotta, poi una rotta che dura anche alcuni minuti e niente di più, però purtroppo la vita è questa e ognuno ha le sue cose da fare e giustamente si comporta come crede, ci mancherebbe altro. Avanti Claudio, riprendi? No, sei ancora impegnato evidentemente. Ho mancato la luce anche a lui. Oh, Massimiliano, caspita, ne facciamo il giro, facciamo stasera. No, magari sta provando qualcos'altro, si è allontanato. Guarda, io ti dico una cosa, Giulio, che forse da una parte è meglio essere due o tre così, capito? Possono nascere dei bei QSO e poi tante cose. Quando c'erano troppe persone mi era dopo un casino, quindi non lo so. Vabbè, comunque, il discorso non mi sono allontanato per questo, ecco. Diciamo che avevo altri impegni là, più urgenti della radio, quindi. Ma adesso sono giusto, boh, forse in questa settimana, oggi è la prima, no, forse un'altra volta sono entrato con Claudio, ma proprio 10 minuti e sono andato via. Beh certo, ci mancherebbe altro, il baracchino, sempre in secondo piano, ci sono cose più importanti, è ovvio, soprattutto cose di famiglia, eccetera, è meglio assorbire quelli, i compiti, non quelli di stare attaccato al microfono per modulare con gli amici, anche se fa piacere anche quello, però è una cosa che passa sempre in secondo ordine, ci mancherebbe altro, te lo dico. Sì, in effetti hai ragione, in quel periodo, soprattutto quando eravamo tutti quanti segregati a casa, c'era un casino del diavolo proprio, non se ne capiva più niente, era proprio un manicomio completo, era. Per cui tutto sommato anch'io sono del parere che è meglio adesso che prima, perlomeno in quella situazione era un pochino così messa male, nel senso che c'era troppo casino, troppi pasticcioni, in poche parole. Oh, anch'io mi considero pasticcione, sia ben chiaro, però preferisco come oggi. Visto considerato che prima era così, allora preferisco che la frequenza funzioni come sta funzionando oggi. Vai Massimiliano. Sono entrato. Sì, va bene. Sì, no. Ah, perché non sono niente baracchini. Poi c'era troppa gente, quindi c'erano un po' di bisticci, un po' di malumori, forse perché magari non si usciva e tutte queste cose qua. Da. E vabbè, comunque, ormai gli è passato. Là. Avanti di qua. Chi è che vuole entrare avanti? Buonasera a tutti, doppio uno a questa parte. E allora chi c'è che anda giù, prendo il vedere, ci fa vedere sopra. Ma si vedi, vi prendo per un attimo io e faccio una battuta. Ecco, questo è uno di quei casinissimi. Sto scherzando, Gianni. Avanti, Gianni. Oh, mi ha detto avanti, dopo mi prega. Vabbè, buonasera. Non stavo manco ascoltando, ho acceso adesso in questo momento e ho fatto questo errore, però era al telefono e quindi ho acceso in questo momento, dai. Era acceso l'apparecchio ma con volume basso. Ma io ho sentito un bip, ma non ho sentito a te chiamare. Per quello che ho detto, capito? Poi c'era anche l'altro, Luca Flippo avanti. A beccan a voi, un baffo vi fa. Chi becca? Beccan! Ma buono gioco, devo andare baffi. già mi sono capito io, dai. Vabbè, ok, dai, comunque sto facendo sempre. Adesso sono rientrato qua e faccio qua, dai, vi sto ascoltando. Buonasera a tutti. E ciao Luca. Ciao Gianni e ciao Luca. Va bene. Ciao a tutti e due, buonasera. E io un altro poco me ne vado, sono già le 7:10, ma giovanca non che va freddo, ho la finestra aperta. Anzi vai, vi saluto e me ne vado a guardarmi un po' di TV. Ciao Massimiliano, ricordati se è di telefonarmi perché ancora non sono attivo su WhatsApp. Vedo le notifiche che arrivano ma non me le fa vedere. Non so perché, vabbè, comunque, domani vado nuovamente alla Willy e vediamo cosa hanno deciso di fare. Ciao Giulio, ciao Gianni, ciao Luca, ciao a tutti, divertitevi, non io voglio stare in radio stasera. Ok, vai Massimiliano, riprendi. Andare, ok, e anche io qualche altro passaggino, e poi me ne vado anche io giù, che qua c'è freschetto, giù c'è la stufa a pelletta accesa. Andare là, ti faccio salutare dagli altri, ciao Cla, buona serata e buon divertimento. Avanti Gianni. Ciao Claudio, buona continuazione di serata, dai, ci sentiamo. Avanti Giulietto. Ok, ciao Cla, a domani, dai, se coincide, magari anche domani mattina, una chiacchieratina come abbiamo fatto stamattina, anche se sei impegnato, hai fatto qualche passaggio così, ma proprio volante proprio. Va bene, ciao qua, grazie per la chiacchierata, a domani. Avanti Luca. Ciao qua, vedi, entro io e chiude lui, capito, giù, poi si lamenta di me. Ciao qua. No, ti dico di bigliarla in curva, ma te lo gioco di trend, ciao. Già fatto, ah, male ci sei rimasto. Beh, non sento queste cose, non ho voglia, io ho giornate un po' particolari, anch'io in questo periodo, a volte voglio essere in radio, a volte no, non la giurano. Ma allora la vedo un po' di TV, dai. Un abbraccio a tutti e buon divertimento, ciao. Eia, ciao, un abbraccio da signorini. Un bel saluto gli hai mandato da signorini, quella donnina. Non è possibile. Cazzo, tia, oh Luca, ma insomma, questa signorini li dovrebbe citare. Una bella donna, dimmi bene, allora è diverso. Ma proprio signorini, non lo so io, Luca. È un bel qua qua qua, signorini. La dovevo chiamare signorina, non signorini. Ma se me li ha, ci siamo messi bene, sì, bobo. Ah, lo gioco, io sono delle altre sponde. Oh, Massimilia. Dimmela. Oh, ma questo è un dipolo, sì che non ti spaventare se il segnale è basso. Ho un dipolo, sto usando. Non va bene, la voglia, 7-9 qua. Sì, sì, va bene, va bene. Dove ce l'hai puntato, al mare? No, è frontale, alla chiesa. Ma è rotativo? No, in cavo RG58 l'ho fatto, capito? Sì, che sto usando quello. Ma già va bene, segnale, ti ripeto, qua è 7-9, radio 5, si è a posto, va. Qui è 9-15, vabbè, ti puoi immaginare, è puntato verso di me, evidentemente. Va fortissimo, veramente molto molto bene. Considera anche Massimiliano che noi stiamo ricevendo in verticale e lui è in orizzontale, sicché anche quello evidentemente è puntato bene proprio sulla mia zona. Bene bene, avanti Gianni. Sì, a me va bene, dai. Ma quella lì che cosa devi fare poi? La Luca Master devi fare con quel di polo oppure lo lasci così? No, questo è orizzontale, ho già. L'ho messo così per provarlo, mi stavo annoiando. E ho preso il coso, non è esatto l'agito. Beh, mi dicevi di tricche balla che sembra che il segnale sia buono, è basso, pensa che il piede lo ha vinto tranquillamente senza nessuna scaletta o chissà che. E non che si fanno scala, sono sbagliato. Allora lui, io ti ho guardato, allora con la manto va sui 9 quasi 10, questa è l'altra antenna. Giulio lo stesso mi ha dato un segnale così. Ma Giulio va a Game Master, io non nascio Game Master, quelle sono più, prendono più segnali. Qui è 9.15 da me, infatti stamattina gli ho mandato anche il video del coso, cioè l'ho registrato, lo smittere gliel'ho mandato, perché ci siamo sentiti anche stamattina. No, va benissimo, altro che va molto bene quel di Polo, non poco, non molto, molto molto bene. Poi lì a fondo squadra da Gianni, sì, che vuol dire che è orientato soprattutto su di te, Gianni. È 9.20 qua, arriva più forte di voi. Sì, lo sto dicendo, arriva benissimo, ma forte veramente, alla grande, proprio alla grande, veramente. Bene bene, vai Gianni. Sì, no, va bene. Non lo so, è lontanata, come va, però qua va molto bene. Vabbè, noi siamo, ci vediamo con le antenne, si può dire. Sì, ma per la città va bene, dai, Luca, ce n'è per i maiali, a Puglia. No, ma i dipoli vanno bene anche in distanza, Massimiliano, sono antenne direttive. Secondo la direzione che li dai, vanno meglio delle altre antenne. Massimiliano! Ehi, dimmi. L'hai visto il palo dove c'era la verticale della 27? Quello che facevi salire su. Quello lì è il palo della 27, vedi che non c'è più antenna. Lo vedi, il dipolo, vabbè, visto così sembra basso, però considera che il PL, la scatola che vedi è a 1,70 m, capito? Perché sono due tetti, come ben vedi, uno è più basso e uno è più alto. Però la scatola centrale di quel dipolo è a 1,70 m, capito? Poi considera che c'è la tromba dell'ascensore sulla sinistra, c'è la tromba dell'ascensore, la giubbo su sia, rimani, ma te se più vendi, e l'ho piazzato così giusto per provarlo. Una volta analizzato è tutto, così è finito, dai. Avanti Massimiliano. Ma lo puoi anche lasciare, magari volendo, se riesci a sollevarlo un'altra metrata almeno, dai. Adesso devi provare un po' in lontananza, com'è, se ti ascoltano, lo potresti anche lasciare così poi alla fine. Quello sarebbe stato bello farlo un po' rotativo, anche perché è piccolino. Non ce l'ho più il rotore, non l'avevo venduto. Non ce l'ho più. Andava. Vabbè, ma comunque va bene, ti ripeto, qua sei 7-9 su questa radio e questa ti sto dando un controllo con la Sirio, questa è l'antenna Sirio, quella con 8 radiali, ed è molto più in basso della Mantova. La Mantova sei quasi 9-10 sull'altra radio. Figurati, e come ben vedi è frontale al campo sportivo, No, se dovessi mettere antenna vorrei mettere la verticale, no? Mi tengo chissimo. Ma l'ho fatto giusto perché mi stavo annoiando, buttato lì così in 58. Avanti Giulio. Ok. Beh certo Luca. E ti dirò di più, ne sono più che convinto, è anche più silenzioso come rumore. Avete considerato che sia in orizzontale, sicuramente è anche più silenziosa addirittura della verticale, quella che avevi prima, dai, sicuramente così, confermi? Ma qua sì, quello sì, è silenzioso, ma io con la verticale, perlomeno con le mie, ho, cosa ti posso dire, QRM a 1 massimo, non ne ho QRM alto io. Sì, beh certo, ma quello lo so, certo, quello sì, no, ma siccome è abbastanza capibile il fatto che se essendo in orizzontale è ancora meno QRM e tutto, proprio praticamente si azzera. Bene, bene, avanti Gianni. Ehi, io invece so sempre con la stessa antenna, no, non è morto. Questa va benissimo a me, penso che anche a te ci dovrà bene questo tipo di antenna. Poi c'è Luca, quando si rompe questa la facciamo fare a Luca. Quello già è vero. Guarda che Luca ne ha da prendere mie, non è che tu basta che glielo chiedi e lui te la prende, che problemi ci sono, vero Luca? Puoi usare la stessa struttura, non c'è bisogno di niente, ne voglia chi sa chi va e uso la struttura per le mie. Certo, anche esternamente la può mettere al limite, no? Se avesse problemi di infilare dentro, ma non credo però, perché i collegamenti sono fatti abbastanza sottili che si può infilare dentro la canna da pesca di Game Master, vero Luca? Beh sì, perché la Game Master non è conica come la canna da pesca, capito giù? Non essendo conica, è anche quello un suo difetto, diciamo così, però sì, dovrebbe passarci dentro. Ok, per cui già, se te ne vuoi comprare una di scorta, sappi che ce l'ha pronta, già, pronta consegna, così si dice. Ebbene, bene, avanti Massimiliano. Sì, tanto più o meno, diciamo che le strutture sono quelle, dai. Ma volendo può anche mettere, ne può mettere anche un'altra vicino, su un altro palo, e c'ha anche un'altra antenna. Non lo so, non ne sono convinto molto Massimiliano, sai perché? Ti spiego, perché quel tipo di antenne hanno bisogno di una certa distanza tra l'una e l'altra. Adesso chiediamo a Luca, vediamo come pensa lui che le fa sempre, dunque è abbastanza addentrato in materia. Avanti Luca, rispondi a Massimiliano. Sì, si possono mettere due verticali vicino.